Sempre nell'ambito del convegno Matriarcato e Montagna, per la sezione Donne e Resistenza, Adriana Lotto, che collabora con l'associazione Tina Merlin di Belluno, ci presenterà la vita di Tina Merlin, la montagna, la resistenza di ieri e di oggi, la sua infanzia in quanto staffetta partigiana, la sua gioventù come giornalista che si opporrà fermamente al progetto della diga del Vajont. Rispetto alle tematiche che scandiscono le sessioni di questo convegno, quindi io non parlerò soltanto di Tina Merlin partigiana, ma di Tina Merlin appunto figlia della montagna e della Tina Merlin diciamo del Vajont e del suo impegno successivo a questa tragedia. Quindi sono tre sostanzialmente i momenti, insomma, che possiamo individuare nel corso della sua esistenza, tre momenti di resistenza. Il primo coincide appunto con la sua infanzia, che vive in montagna, una montagna che non è affatto trasfigurata letterariamente, no? non c'è una concezione romantica della montagna. La montagna è un luogo dove si fa fatica a vivere, dove è difficile vivere, e dove però si imparano, e Tina Merlin appunto impara fin da bambina, forme, capacità appunto di resistenza che fanno un tutt'uno con la dignità, con l'aggressività, dice lei, e la diffidenza anche, difetti che si coltivano per autodifesa. Dopodiché ci sarà un secondo momento, quello che coincide con la resistenza durante l'occupazione tedesca, ricordo appunto che la provincia di Belluno insieme a quella di Trento e a quella di Bolzano fanno parte nella zona di operazioni Alto il Forlan, e annuncio che a marzo, alla fine di marzo, di marzo prossimo ci sarà un convegno appunto articolato su tre giornate, una Belluno, una Trento e una Bolzano, proprio appunto sull'Alto il Forlan, no? su questo periodo appunto di occupazione. E terzo momento appunto è quello che coincide con il decennio, possiamo dire, che va dal 53 al 63, che viene appunto l'inizio della costruzione della diga del Vajont, la tragedia del Vajont e i problemi appunto di ordine anche, no, ambientale, ecologico, che questo evento apre successivamente. Io sono convinta che sia importante capire che cosa questa ragazza abbia assorbito dalla cultura di montagna nel corso della sua infanzia, per poi capire come appunto si sia servita di determinati codici di comportamento, convinzioni che sono state appunto della madre prima di lei, ma delle altre, della nonna, in genere delle donne di montagna, per capire appunto poi come abbia potuto, insomma, nel corso della resistenza opporsi all'occupazione, perché mi pare insomma importante stabilire non tanto perché le donne abbiano resistito, siano andate a fare le scarpette partigiane, ma come hanno fatto, perché alla fine poi è questo che diversifica la resistenza femminile da quella maschile, no? Altrimenti appunto continuiamo a dire che loro è stato semplicemente un contributo, e invece io vorrei sottolineare, ecco, le caratteristiche, insomma, e soprattutto l'autonomia con cui le donne hanno agito, indipendentemente dal fatto che poi fossero all'interno delle formazioni partigiane, perché poi non ci sono solo queste, non sono solo le partigiane, ci sono tutte le altre donne appunto che hanno creato questo tessuto che, come diceva prima Michela Zucca, ha fatto sì che poi la resistenza, insomma, fino a me dice quella grande, quella maiuscola, abbia potuto attuarsi. Allora, che cosa assorbe, diciamo, Tina Merlin nel corso della sua infanzia? Quale idea di montagna? Vi risparmio le citazioni, ma riassumo, insomma, dicendo che per lei la montagna, lo scrive nel suo libro autobiografico, La casa sulla Martinica, è un luogo, il luogo dove si sta nella contemplazione della natura e della interazione con essa, cioè distanza e manipolazione sono i due atteggiamenti che consentono di conoscere e fare quello che basta per sopravvivere, per rispondere con accortezza e misura agli umori della montagna, che a volte non hanno freni, come ad esempio negli alluvioni che gonfiano la Martinica, che è appunto questo torrente che lambisce la sua casa, inondano Santa Tella, che è la località dove sorge questa casa, eppure queste alluvioni sono anche al tempo stesso il segno visibile della vitalità della montagna, no? Quella stessa che si manifesta ad esempio nella miriade di vermi che fuoriescono dalla terra rivoltata e che attiva piace calpestare, proprio perché dice il sentivo, no? Calpestando la terra rivoltata e umida e schiacciando i lombrichi che affioravano numerosi dalle zolle rovesciate, sentivo il fresco della primavera sotto le piante dei piedi. Quindi c'è questo sentire, insomma, la montagna, no? Da un punto di vista proprio della sensazione fisica, come sente ad esempio allo stesso modo anche la neve che sta per arrivare, annusando l'aria, perché dice che appunto l'aria ha un odore particolare quando sta per nevicare, e la notte dice che nevicava, io lo sentivo nel calduccio del mio letto sotto il tetto, dice c'era un silenzio assoluto e inattato. E proprio perché la montagna, quindi, come dire, è qualcosa che deve essere conosciuto nel profondo, proprio per capire che la montagna è anche imprevedibile. Una imprevedibilità, come dire, che è appunto propria degli estranei, ma è un po' meno imprevedibile, se così si può dire, per chi la conosce, no? Per chi sa decifrarne i semi che precedono qualsiasi suo sobbalzo. Quindi proprio perché la montagna è morale, in montagna si deve stare con leggerezza, e la leggerezza appunto è una delle caratteristiche delle zone, delle donne di montagna, ed è anche nello stesso tempo la loro forza. Queste donne che si inerpicano per i monti, con il sole, con la tempesta, cariche di fardelli che intanto che salgono intessono e pregano, e mai un passo falso, impavide, vanno costeggiando il precipizio, scrive Silvia Poletti, che è un'altra scrittrice importante di origine cadorina, poi emigrata in Argentina, allenate fin da piccole, dice Tina Berlinga, a portare la gerla cariche di fievole, tame e patate, e a passare da un versante all'altro percorrendo sentieri veloci come scoiattoli. Quindi leggerezza, velocità, senso proprio forte della montagna, sono appunto caratteristiche di queste donne. Leggere appunto sono anche quando partoriscono un figlio dietro l'altro, come la madre di Tina, con i loro mariti o senza di loro, che li fanno forti di fisico perché la forza interiore se la devono tenere per sé, per poter sopportare che quei figli magari se ne vadano prima di loro, come la madre di Tina, che li perde tutti e cinque i figli maschi, o in guerra o per una qualche fatalità. Sono leggere queste donne che piangono in silenzio, che riescono a singhiozzare sottovoce, ma sono anche pesanti nei loro pensieri, così che tra sogno e realtà riescono sempre a capire, insomma, la differenza, e non hanno mai pace, perché appunto tra il sogno e la realtà c'è sempre, come dire, la volontà, insomma, di riaccostare in quanto meno. E nello stesso tempo però, come dire, c'è anche nelle donne di montagna l'idea che è da testarvi, come scrive Tina Berlinga, trasformare appunto la realtà, no? Mentre il possibile è da saggi. E allora appunto, riferendosi ad esempio alla resistenza della madre di fronte ai lutti, alla mancanza di amore, alla fatica, dice che le sue mai espresse ribellioni erano il segno di intelligenza, non di povertà d'animo. Quindi c'è una forma di resistenza in montagna, nella montagna appunto dei primi decenni del Novecento, che non può tradursi in ribellione, ma si traduce, come dire, in una sorta di adattamento, che però non significa sempre acquiescenza, ed è comunque quell'adattamento al quale Tina Berlin aderisce in qualche modo, ma dal quale riesce anche a liberarsi proprio nel periodo resistenziale vero e proprio. E la montagna, appunto, si sa che, lo sa Tina, che è un concentrato di fatica e di sofferenza al quale appunto si resiste sopportando. Sopportare significa prima di tutto lavorare, per non perdere in basso, no? Quindi il lavoro diventa per lei una forma appunto per conservare la propria dignità, per non cadere a livello dei miserabili che hanno bisogno della elemosina. Significa strappare la montagna, quel poco di terra buona, tirar fuori da mangiare anche dai sassi, come diceva la madre, e nel contempo prendere ciò che offre spontaneamente, i funghi, le erbe, le bacche, i gamberi di torrente. E sopportare significa anche emigrare, sapendo che quel che aspetta fuori è un mostro onnivoro che inghiotte non solo i corpi ma anche le anime. Si muore asfissiati, scrive Tina Berlin, in galleria, schiacciati sotto i carrelli, stritolati dalle macchine, consumati dalla silicosi, ma anche dalla nostalgia. L'immigrazione è dunque una forma di resistenza alla durezza della montagna, alla sua avarizia, che diventa però pericolosa l'immigrazione quando, venuti meno i punti di riferimento noti, si va all'estero come in un deserto nel vuoto di abili fisici e morali. Eppure si emigra, dalla montagna si emigra da quella berlinese dalla metà del Settecento, anche a 8 anni, per non diventare appunto di morti di fame. E la madre di Tina a 8 anni viene proprio a Trento a fare la cionetta sotto appunto quell'albero di Tiglio, insomma, no? Che raccoglieva, no? Donne e bambini che poi venivano portati nelle famiglie dei dintorni. E alla durezza della montagna si associa a un certo punto quella della guerra appunto del 17-18, che portò un esercito affamato, che portò carestia, e allora, come nella seconda guerra mondiale, conoscere il sentiero e farlo in punta di piedi la notte del chiaro di luna torna utile se si tratta di portare quel poco di grano salvato dalle requisizioni al mugnaio che clandestinamente aiuta i paesani. Come utile torna a sapere che le ortiche bollite sono sufficienti a non far morire di fame. Quindi la montagna insegna l'essenzialità, per questo dà e toglie, e allora bisogna saper fare i conti con quello che si ha. Il principio di economia che Tina assorbe appunto nel corso della sua infanzia e che le insegna proprio la natura, trapassa dalla natura all'uomo. Niente di natura va perso, tutto si ricicla e le donne, soprattutto in condizioni estreme, quali quelle della guerra, imparano appunto a riciclare. Ci sono tantissimi esempi che non vi elenco, ve ne basti uno, ad esempio nel corso della Seconda Guerra Mondiale prendevano i paracaduti con cui gli alleati scendevano, li sfilacciavano, liberavano insomma dalle corde e ne facevano tanti. Quindi anche in casa si deve essere così, cioè riciclare quello che si ha, ed è questo un principio che appunto torna utile in queste situazioni. Però per Tina Berlin la montagna della sua infanzia era anche il luogo dei legami comunitari, della solidarietà che è fatta di tacite intese, di gesti essenziali, scrive un po' ovunque nei suoi articoli di giornale, ma anche appunto nel suo libro autobiografico, che c'è più solidarietà nella montagna, più senso dell'umano, nelle persone e nelle cose. Anche se la montagna è comunque un luogo di profonda solitudine, che tuttavia favorisce nelle donne, perché sono essere più sole, visto che gli uomini emigrano stagionalmente, una certa autonomia di pensiero e di azione, essenziale quando si trovano a decidere, cioè praticamente sempre, con apparente istintività o incoscienza, in realtà invece con quella determinazione che viene da lunga pratica. E anche durante gli anni della guerra, appunto, le donne si troveranno si troveranno di fronte a decidere il punto bianco, come è stato detto, insomma, no? Se far entrare il partigiano in casa o l'inglese appunto paracadutato. Nel corso della sua infanzia, quindi Tina fa l'esperienza di questa montagna. È una montagna in realtà bassa, non è la montagna alta di cui parla Ada Bobetti, no? Che è stata citata stamattina nel suo diario partigiano, perché c'è anche da un punto di vista così culturale l'idea appunto che la cima della montagna sia interdetta, non solo in cima alle donne ma anche agli uomini. Anche da noi, come penso qui, ci sono appunto la condizione che se si sale oltre il limite si comincino a verificare strane apparizioni. Noi abbiamo appunto questa sorta di cane selvatico che, no, che abbaia ma non si vede, abbiamo appunto il basilisca che prende, no, il senso di orientamento e fa girare a vuoto, quindi no, è la montagna bassa quella appunto che sostanzia, diciamo, i pensieri, i sentimenti, la formazione di finamento. Ma appunto durante la resistenza, spinta probabilmente da una sua amica, ecco, anche lei vuole andare in montagna, quindi questo termine dell'anno di espressione dell'andare in montagna, che già è stato usato stamattina, vale anche per lei, perché appunto in la montagna, a questo punto, quella più alta, diventa un rifugio, diventa il luogo appunto in cui ci si può rifugiare momentaneamente in attesa di ritornare appunto a valle come i fiumi in piena. E nel frattempo però a valle Tina fa la staffetta, ma non vive all'interno delle formazioni, quindi non sta in montagna, ci va e ci torna con quella profonda conoscenza appunto dei sentieri delle vallate che ha imparato proprio da giovane. Questa volta appunto va a portare gli spacci, va a portare maglioni e calzini, ma come va in montagna va anche a Venezia, sempre appunto con quella sua bicicletta, con la quale poi alla fine della guerra vincerà anche delle gare, delle competizioni, misurandosi con i maschi. E ovviamente in montagna, in ogni caso, insomma, come dire, allarga un po' lo sguardo, no? Perché stare in alto significa appunto adottare un punto di vista opposto, significa guardare dall'alto in basso, non più dal basso all'alto, e anche liberare il proprio pensiero, insomma, no? Ad una prospettiva più larga, che per Tina comincia a essere anche quella della sua emancipazione personale. Quindi non si tratta di difendere la montagna soltanto da un invasore, ma si tratta anche di far diventare quella esperienza, come dire, una premessa, insomma, per una liberazione appunto di genere, chiamiamola così. Quindi alcune cose sono già state dette su questo stare della donna in montagna da Maria Teresa Sega, quindi non mi dilungo. C'è da dire appunto che quello che capisce comunque Tina Berlin da questa esperienza è appunto che se nelle case del fondovalle non si fosse tessuta una rete di sostegno, ecco, quelli che stavano in montagna, soprattutto dopo gli rastrellamenti del 44, non sarebbero scappati alla tortura. E che cosa succede allora nel fondovalle? Che entrano appunto in campo quelle antiche abilità di cui parlavo, percorrere i sentieri veloci come scoiattoli, ecco, serve a non farsi catturare, non perdere l'orientamento nemmeno quando nevica, serve ad arrivare sicura nel luogo in cui si deve andare, riuscire appunto ad attraversare anche, insomma, facendosi notare dai tedeschi luoghi scoperti, ma a riuscire in qualche modo a rispondere alle loro fermate o con un sorriso o con delle battute proprie o con un giusto ammiccamento, quello che magari queste ragazze usavano nei confronti dei grandi proprietari terrieri, no? E uno di loro ha definito appunto questo modo di comportarsi dei contadini, malizia, malizia villana, Tutto questo appunto torna utile, insomma, no? Per salvare uomini, case e comunità. Dopodiché questa esperienza ritorna di nuovo utile nel momento in cui il forestiero o invasore non è più il tedesco ma diventa appunto la SAD, no? Questa società appunto elettrica che allaga prati, valli, costruisce laghi artificiali, seppellisce quegli antichi sentieri, insomma, che sono stati incalcati da generazioni di donne, stravolge il paesaggio, cancella tracce di una presenza secolare, massacra la montagna, la rapina, la spopola, la offende appunto fino a farla ammalare. E allora Tina Merlin forte questa volta del suo mestiere di giornalista e forte di un giornalismo di inchiesta che diventa una forma di denuncia ma anche di nuova resistenza, comincia appunto a scrivere sull'Unità che i danni causati dalla società elettrica all'economia montana sono appunto incalcolabili, perché toglie ai montanari ciò che serve loro per vivere, il raccolto dei boschi, dei pascoli, dei campi che sono appunto l'unica loro risorsa di vita. E torna appunto nel corso di quei decenni, 53-63, su queste tematiche, dicendo tra l'altro che loro si erano battuti contro i tedeschi anche per salvaguardare centrali elettriche, tutto ciò che sarebbe servito insomma dopo per far ripartire l'economia montana. In che modo? Non nei modi con cui è ripartita, cioè sostanzialmente scimmiottando insomma i modelli di sviluppo della pianura che hanno portato, no, molto spesso appunto il caso del Vajont è uno degli esempi diciamo più eclatanti, hanno portato soltanto danni. Comincia Tina Merlin a ragionare appunto sulla montagna intendendola come un laboratorio e di democrazia e di economia, perché lei poi tra l'altro la sfera economica e quella diciamo politica dei diritti non si scindono mai, quindi non si tratta soltanto di economia in senso stretto, ma si tratta appunto di diritti, di qualità di vita, di possibilità appunto di lavorare nella terra in cui si è nati. E allora da questo punto di vista la emigrazione non è più una forma di resistenza come poteva essere nei decenni precedenti, ma diventa una forma di violenza perché è coatta, perché appunto la SADE costringe i contadini, ertani in particolare, ad andarsene. E allora scriverà un articolo in cui appunto propone, ovviamente qui dire, il pensiero di Tina Merlin è anche allineato in parte con quello del Partito Comunista che in quegli anni appunto si va interrogando sulla rinascita della montagna, comunque insomma propone questi 11 modi diciamo per sviluppare, per difendere e sviluppare la montagna, premettendo che gli emigranti non chiedono l'auto per guadagni ma chiedono lavoro, la possibilità di restare, a guidare la casa, di fare veramente, cioè, mariti e padri, e quindi chiedono l'umano, se vogliamo cristiano, diritto all'unità della famiglia, scarpe e cibo e possibilità di istruzione anche per i figli. E allora appunto pensa ad una economia basata sul potenziamento, ad esempio, dell'industria tradizionale, occhialerie, fornaci, legname, sull'artigianato, sull'arboricoltura piuttosto che sull'agricoltura, che produca anche per l'estero, e sul turismo. Ma quando parla di turismo non parla di autostrade ma di ferrovie, non di grandi alberghi ma di case appunto adibite alla ricezione. E siamo nel 1953, non siamo alla fine appunto della, no, del Novecento o all'inizio del 2000. E prioritari ci sono le opere di assestamento dei bacini montani, e quindi le cosiddette opere pubbliche, poi anche acquedotti, fognature, scuole e strade. Chiede alla SADE di lasciare parte dell'energia elettrica in montagna, proprio perché questa ricchezza, appunto, che è l'acqua, non venga completamente regalata, ma possa essere riutilizzata in montagna per far crescere appunto l'economia, l'emigrazione e la montagna, e salvare la montagna, che per lei comincia ad essere dipinta, che da lei è concesso dipinta come una malattia cronica che ha bisogno invece di essere curata a fondo, quindi a fondo significa senza forzature, senza appunto importare e imporre modelli di sviluppo propri della pianura, ma che sono assolutamente estranei alla montagna. E a chi concludo, in tutto questo suo discorso, l'accusa di essere una conservatrice risponde in questo modo. Mi si dice spesso, c'è un teorico paternalismo, che non è più il tempo degli idealismi, la società è cambiata, i problemi anche, eccetera, eccetera. È la solita solfa di chi crede di essere all'altezza di una società moderna, come se i cambiamenti sociali, in meglio o peggio, cancellino aspirazioni ideali, non entrerebbero invece anche di nuovi, come se non fosse la spinta degli ideali che animano il popolo a far progredire il mondo. E altrove ha detto, io non mi sono opposta alla Sali perché ero contro il capitalismo, io ero contro quel costo sociale appunto che il capitalismo comportava. Quindi in queste sue parole non vi era alcun spirito conservativo né vecchiume, ma solo la convinzione che si può sempre fare meglio, che non si nasconda la verità e si ami la giustizia.